Prologo. Tiflis, Georgia, Impero Russo, 26 giugno 1907. Il venditore di frutta ancheggiava di fronte al caravanserraglio, reggendo sulla testa un vassoio di pesche e ciliegie. I piatti della bilancia, pesa alla spalla, tintinnavano come cimbali, agitati dai passi di una danza scomposta. Cantava con voce di contralto, in un miscuglio di lingue. Leonid distinse a malapena la pronuncia storpia delle parole russe. Koba gli aveva spiegato che gli ambulanti di Tiflis non erano semplici fruttivendoli. Oltre a improvvisare ballate sui fatti del giorno, molti lavoravano per la polizia. Osservavano e riferivano. Spifferavano e tradivano per pochi spiccioli. «Oggi avrai davvero una storia interessante da raccontare», pensò Leonid. Finse ancora di appassionarsi al giornale che teneva sotto il naso. Sfogliò una pagina, scorse i ghirigori di un titolo in georgiano e rialzò la testa. Abo era sempre davanti al cancello dei giardini, bottiglia in mano, stessa posizione di un minuto prima. Anche gli sbirri che sorvegliavano la piazza erano immobili. 2 alla porta del municipio, 4 sotto la caserma. Rassicurato, Leonid seguì l'incedere di 2 cammelli carichi di tappeti. Studiò gli abiti di un po' per meno, controllò il fruttivendolo alle proprie spalle. Il balletto proseguiva senza pubblico. Leonid stava per ricominciare la trafila. Un'altra pagina di giornale, un'altra occhiata di sguincio, quando Abo lasciò cadere a terra la bottiglia di vino. Il vetro andò in frantumi sui ciottoli. Gendarmi e soldati all'ingresso della caserma si girarono di scatto, ma un attimo dopo tornarono a fissare le 2 ragazze, che stavano lì apposta per intrattenerli. Camus, nella sua bella uniforme da capitano, prese a far la spola su e giù per la piazza, invitando i passanti a togliersi dai piedi e incalzando i più riottosi con le braccia spalancate. La benda sull'occhio gli dava un'aria arcigna e marziale. Sbraitò 4 ordini in russo, come un vero ufficiale, subito imitato dal venditore ambulante, in una pantomima di strilli. «Largo! Fate largo!» Leonid avanzò verso la strada da cui dovevano arrivare i carri. 3 minuti e sarà tutto finito», aveva detto Camus. Sentì il rumore degli zoccoli e l'aria si riempì di polvere. La mano scivolò nella sacca che portava a tracolla. Tastò la mela, strappò il picciolo e restò in attesa. «La potenza di fuoco è la chiave del successo», aveva detto Krasin. La prima coppia di cosacchi sbucò al piccolo trotto in testa al convoglio. Fasciati, nelle tuniche nere, il petto decorato da cartucciere ornamentali, tenevano i fucili appoggiati alle selle. Subito dietro, un bestione furbo trainava un calesse postale. Le molle della vettura urlavano per l'andatura sostenuta. A cassetta sedevano 2 soldati e nel sedile posteriore 2 passeggeri in doppio petto con un prezioso bagaglio di sacchi. Un carro simile seguiva il primo col resto della scorta. Ai lati della fila cavalcavano altri 2 cosacchi e altri 2 ancora chiudevano in coda. La colonna doveva svoltare sulla Sololakskaya, attraversando i binari del tram che tagliavano la piazza. Appena il primo cavallo li scavalcò con le zampe anteriori, Leonid impugnò la granata e la lanciò. Altre 12 braccia fecero lo stesso. Il boato scaraventò Leonid gambe all'aria, in una nube di fumo, grida e spari. Una tempesta di calcinacce e schegge di vetro si abbatté sulla piazza. Si rialzò, coperto di una poltiglia piovuta da chissà dove. Si tastò il corpo per sincerarsi che non fosse sangue. Era appiccicoso, sembrava sciroppo e odorava di frutta. Il venditore ambulante era riverso a terra, il capo adagiato sul vassoio come su un cuscino. Leonid cercò riparo dietro lo spigolo di un muro. Un groviglio di legno e cavalli occupava il cuore dell'esplosione. Una zampa scalciava nel vuoto, unico segno di vita nello strano monumento equestre. Gli uomini del convoglio dovevano essere morti o sepolti nei frantumi. Le guardie avevano in petto più piombo che fiato. Secondo il piano, Leonid avrebbe dovuto fuggire nei vicoli del bazar, cambiarsi d'abito in un bagno turco e filare verso la stazione. ma i compagni incaricati di recuperare il malloppo non intervenivano. Leonid si domandò che fare. Un nitrito gli rispose. L'animale che tirava la diligenza portavalori scrollò il muso e si rimise in piedi. Un colpo di M91 lo istigò a una partenza da ippodromo. Il traino, benché mezzo sfondato e senza una ruota, gli andò dietro a una velocità sorprendente, come una slitta su una lastra di ghiaccio. Leonid si lanciò all'inseguimento, ma il compagno Beja scelse un rimedio più spiccio. Come da consegna, non aveva tirato la sua bomba insieme agli altri. L'aveva tenuta di riserva, nel caso qualcosa fosse andato storto. Il secondo scoppio investì Leonid con molta più forza del primo. Qualcosa lo colpì sulla fronte. Il capogiro lo costrinse ad appoggiarsi al muro. Fu circondato da uno sciame di grandi farfalle verdi, rosse e blu. Agitò un braccio per disperderle e ne acchiappò una tra le dita. Era di carta, un esemplare mai visto, una banconota da 500 rubli. Ne raccattò alcune, se le infilò in tasca e si aggregò alla fuga di un drappello di schiene. L'eco che gli riempiva le orecchie gli parve il prodotto di nuove esplosioni. Non avrebbe saputo dire chi o che cosa tuonasse, ma si convinse che il nemico avesse piazzato l'artiglieria sui tetti dei palazzi. Il cervello gli ballava nel cranio come un dito d'acqua in una bottiglia e la vista si annebbiava ad ogni sciabordio. Per fortuna le gambe lo guidavano senza esitazioni. Scavalcavano corpi, aggiravano ostacoli, chiedevano aiuto alle braccia per aprirsi un varco. Destra e sinistra, cadere e rialzarsi, uscire dal dedalo della città vecchia prima che sprofondasse sotto il peso del cielo. Giunto al ponte, si fermò ai margini della calca che bloccava il varco. Mani sulle ginocchia, sputò sabbia e schegge di denti. Contemplò la saliva che infiltrava le pietre come se dovesse trarne un oracolo per il futuro. Dietro di lui si affollavano intanto i nuovi arrivati, che lo urtavano e schivavano per guadagnare il passaggio, finché la corrente umana non lo afferrò e lo trascinò con sé, mentre, sull'altra corrente, quella del fiume, nuotava una coppia di cigni. Le voci attorno lo confondevano. C'era chi parlava di un attentato anarchico, chi di cannoni, valanghe, terremoti e guerra. Sulla riva opposta, la massa si disperse nell'intrico di strade. Le grida si placarono, quasi che l'acqua separasse due mondi. La calma imprevista disorientò il fuggitivo. Sedette su una panca di legno addossata al muro di una casa. Aveva la gola secca e decise di scendere al fiume per rinfrescarsi, ma il corpo non gli obbedì. Restò fermo, le braccia in grembo, a contemplare un gatto che si leccava il pelo. Si leccava il pelo. Si leccava il pelo. Terminate le pulizie, l'animale si lanciò all'inseguimento di una lucertola. Leonid si riscosse. Era rimasto lì troppo tempo e i rintocchi di un orologio glielo confermarono. Doveva sbrigarsi. Esaminò porte e palazzi finché non riconobbe un negozio di cappelli. Anzi, un cappello del negozio, un'enorme papacia di lana bianca appesa al muro. Era già passato da quell'incrocio e poiché di Tiflis non conosceva nulla, salvo i luoghi che Koba gli aveva mostrato in vista dell'azione, immaginò di essere sulla strada giusta, diretto alla stazione e al treno per Baku. La memoria non lo aiutava, ma aveva l'impressione che la meta non fosse vicina. Temendo di cedere prima dell'arrivo, decise di alternare corsa e passi spediti. 50 falcate al galoppo e 30 di marcia, la mente impegnata soltanto dal conto. Il corpo ridotto a gambe e polmoni. Giunse al piazzale della ferrovia con 32 serie di quell'andatura, sudato, sporco e dolorante come dopo la battaglia di Chemulpo. Il fischio del treno non gli concesse di prendere fiato. Si precipitò dentro l'edificio, attraverso l'atrio, raggiunse il binario insieme alla locomotiva. Lo stridore dei freni perforò le orecchie già malandate, ma gli parve lo stesso di udire una voce che chiamava il suo nome. Si guardò attorno, frenetico, senza capire da dove arrivasse. Fu una stretta sul polso a indirizzarlo. «Andiamo!» gli ordinò un uomo, elegante e pulito come un damerino. Era a Koba, ma la voce suonava diversa. Leonid lo seguì nella pancia del vagone. Si fermarono nel corridoio senza varcare la soglia degli scompartimenti. «Almeno la faccia te la potevi lavare», commentò il georgiano. Non dovevi cambiarti al bagno turco? I giapponesi, mormorò Leonid, ma la bocca si rifiutò di proseguire. Era confuso. Gli avvenimenti dell'ultima ora si erano come annacquati e i ricordi lontani emergevano più nitidi. Il treno partì. Koba riprese a parlare, ma Leonid non afferrò il senso del discorso, distratto da visioni senza senso. Sapeva bene che la guerra col Giappone era finita da un pezzo, eppure non poteva fare a meno di vederli, i soldati del Sollevante, intenti a bombardare Tiflis dalla cima del monte Mtachminda. Prese a massaggiarsi le tempie, nel tentativo di scacciare il mal di testa e le allucinazioni. «Abo mi ha raccontato dell'intoppo», disse Koba. «Ma sembra che Kamo sia riuscito lo stesso a fregare i cosacchi». «I cosacchi!» annuì Leonid, mentre da un'emicrania, sempre più forte, riaffioravano dettagli di quanto aveva appena vissuto. I carri della banca, il venditore ambulante, i sacchi di banconote, il cavallo moribondo. «Tieniti pronto!» gli ordinò il compagno. E di lì a poco il treno rallentò. Attraverso il finestrino Leonid vide la testa del convoglio, inarcato in un'ampia curva, puntare all'ingresso di una galleria. «Ora!» disse Koba, e Leonid lo seguì. Con uno strattone, il georgiano forzò lo sportello della vettura. Si sporse, saltò. Saltò anche Leonid, e le ossa già offese non gradirono l'atterraggio. Un prato brullo tra la riva di un fiume e i primi alberi di una foresta. A chiudere l'orizzonte, montagne maestose e disabitate. Maestose e disabitate. Leonid provò a tirarsi in piedi, ma sentì una gamba cedere e cadde in ginocchio. Koba lo tirò per un braccio e lo aiutò a camminare. Non aveva mai provato una vertigine così violenta. L'erba era liquida, le nubi di marmo e nel bosco si nascondevano i giapponesi. Al centro del prato vide una sfera trasparente, alta non meno di 8 metri. Ne intuì la sagoma grazie a pochi pannelli neri distribuiti sulla superficie. Mentre si avvicinavano, Leonid si accorse che non era vuota. All'interno si muovevano almeno 10 individui. Uno dei pannelli si abbassò, come un ponte levatoio, strisciò sull'erba rada fin sotto i loro piedi e li raccolse. Leonid si girò, smarrito, verso il compagno. Koba era alle prese con il colletto della giubba. Lo sbottonò, ci infilò dentro le dita di entrambe le mani e, puntando il mento verso la cupola che ormai li sovrastava, si sfilò una maschera molle, color pelle, con tanto di baffi e capelli scuri. Leonid la guardò penzolare e cadere a terra come un vestito usato. L'essere, che s'era celato lì sotto, aveva vaghe fattezze umane.